Capitolo 6.2. Gli uomini, seduti intorno al lungo tavolo lucido, smisero di discutere. I cinesi aprirono i loro portasigarette, ne presero una Lucky Strike e la offrirono, secondo l'usanza cinese, ai loro vicini americani e inglesi. Indossavano completi estivi di taglio americano e dai taschini delle loro giacche spuntava l'immancabile Parker 51. «Cielo!» si disse Suzanne, che aveva preso appunti per oltre un'ora. «Sembrano proprio uguali agli altri». Humphrey Palmer Jones era di buon umore. Compiaciuto, si fregava le mani, portando continuamente il suo peso da un piede all'altro. Nonostante la goffa giovialità, riusciva a far pesare la sua importanza di uomo d'affari. «Credo che saremo in grado di fornirvi tutto quello che avrete bisogno», ripeté al più severo degli occhialuti cinesi. «Vi siamo molto grati di averci interpellati per primi. La nostra dita è piccola ma molto elastica, molto elastica». Mr. Parrish discorreva con un altro cinese dal lungo viso magro di idealista. «Naturalmente dovremo coprirci, capirete i rischi del blocco. Se le nostre navi dovessero tornare vuote da Tianjin, noi paghiamo in contanti», dichiarò l'idealista con voce secca, davvero uomo d'affari, «in dollari americani». Humphrey annuì con evidente soddisfazione. «Mr. Parrish si occuperà di ogni cosa e spero, signori», soggiunse in tono lievemente più alto e più solenne, «che questo segni il principio di un lungo e prospero periodo di amichevoli rapporti commerciali fra la nuova Cina e noi». Mr. Parrish e il più piccolo dei cinesi si strinsero improvvisamente la mano con reciproco compiacimento e volsero verso gli altri i loro visi raggianti. «Mr. Parrish è il mio maestro», spiegò il cinese. «Ho avuto l'onore di frequentare la sua scuola, Hankou. Sono stato vostro allievo per 3 anni», soggiunse poi, inchinandosi rigidamente a Mr. Parrish con tutte le manifestazioni del rispetto che un cinese deve al suo maestro. Quando se ne furono andati, Suzanne chiuse il suo blocco stenografico con un colpo secco e si volse a Humphrey. «Quasi non credevo ai miei occhi, Mr. Palmer Jones», disse ridendo. «Sono proprio uomini d'affari qualsiasi. Credevo che i comunisti fossero molto diversi». Humphrey manovrava distrattamente in su e in giù la saracinesca, come era sua abitudine dopo aver fatto un buon affare. «Non si può giudicare dall'aspetto esteriore, Miss Howard», rispose. «Ma la differenza c'è. Non hanno parlato di commissioni, sanno quello che vogliono e pagano pronta cassa. Dopo tanti anni di rapporti commerciali con governi cinesi, duro fatica a credere che ora ne abbiamo uno onesto, specialmente dopo l'ultimo, ma forse è ancora presto. Aspettiamo e vedremo, questo non è che il principio». Capitolo 6.3. «Se lo fa ancora, si disse Ho No, mi vendicherò». Ho No era una piccola schiava, non sapeva chi fossero stati i suoi genitori perché essi l'avevano venduta giovanissima durante una carestia alla famiglia Su. Non sapeva nemmeno quanti anni avesse, probabilmente fra i 12 e i 14. Nessuno si curava dell'età di una schiava e Ho No sapeva soltanto di non essere ancora donna. 6 mesi prima, vecchio padrone, vecchia padrona, le 4 taitai, le mogli in sottordine, e tutti i giovani padroni con le loro mogli avevano lasciato il loro palazzo nello Sichuan ed erano venuti a Hong Kong in aeroplano. Ho No apparteneva alla taitai numero 3. «Ma questa non è una persona, è una schiava, perché dovrei comprarle il biglietto?» aveva urlato. «Numero 3, al bigliettario dell'aeroporto di Chongqing». Ho No aveva viaggiato come bagaglio appresso e sull'aereo non aveva avuto tempo di avere paura, perché la sua padrona era stata molto male. Ho No aveva dovuto massaggiarla sulla fronte e le tempie col Tiger Balm, metterle in bocca fettine di zenzero fresco e di olive, slacciarle l'alto colletto e pizzicarle il collo fino a far apparire 3 segni rossi. Poi si era sentita meglio. Ora erano qui, nella grande casa di stile occidentale in cima alla collina. Ogni taitai aveva la propria stanza e vecchia padrona il suo oppio. Temendo di non riuscire a trovare oppio a Hong Kong in mano agli stranieri, ne aveva contrabbandato alcune once in ognuno dei 6 prosciutti affumicati che facevano parte del suo bagaglio. Ma i suoi timori erano risultati infondati e la necessaria provvista d'oppio le giungeva regolarmente. C'erano stati soltanto due funzionari della polizia da aiutare affinché fingessero di non vedere. Vecchia padrona era felice. Numero 2 e numero 4 erano felici, giocavano tutto il giorno Mahjong con le amiche, ma numero 3 era infelice. Prima di sposare vecchio padrone era stata attrice. A Hong Kong andava a vedere film americani e opere cinesi, fumava sigarette che facevano bene alla gola e prendeva lezioni di canto. Aveva anche comperato molti vestiti nuovi, rossetti per le labbra, calze di nylon, scarpette dorate, borsette di perline e cinture elastiche per migliorare la figura, ma importunava continuamente vecchio padrone perché la presentasse ai suoi amici che avrebbero fatto di lei una imperatrice dello schermo. Perdeva spesso la pazienza e allora batteva o no. Numero 3 infastidiva vecchio padrone, già turbato e preoccupato dal pensiero dell'avanzata comunista. I comunisti avanzavano molto rapidamente, il Sud non aveva offerto alcuna resistenza. Ora si dirigevano su Canton, l'ultima grande città, a sole 80 miglia dai confini della colonia. Vecchio padrone si chiedeva spesso se Hong Kong fosse sicura. Alcuni amici suoi erano andati a Formosa, che ritenevano più protetta. Gli americani non lasceranno prendere Formosa perché fa parte del loro sistema di difesa, dicevano, annuendo saggiamente e ripetendo l'opinione generale. Ma ora si diceva che i comunisti stessero allenando le loro truppe al nuoto e che persino nel bastione di Formosa i pezzi grossi militari del Kuomintang non si sentissero molto tranquilli. Vecchio padrone riteneva Hong Kong un rifugio più sicuro sulle colline dei nuovi territori affittati agli inglesi. Per altri 45 anni erano accantonate molte migliaia di soldati inglesi e altri ne sarebbero arrivati. Nei cortili delle caserme di Hong Kong i soldati facevano continue esercitazioni e vecchio padrone si fermava a guardarli, rossi come gamberi cotti nel sole bollente e gocciolanti di sudore, il cui odore acre e rancido giungeva fino alla strada, facendo arricciare il naso ai passanti, soddisfatti che anche i diavoli stranieri faticassero e sudassero. Gli affari andavano bene a Hong Kong, si costruiva molto e molte fabbriche vi si erano trasferite, i negozi erano rigurgitanti di merci americane, si facevano ottimi e rapidi guadagni e il traffico di verghe d'oro da Macao andava a gonfie vele. Ma in avvenire nessuno poteva prevedere quello che l'anno nuovo avrebbe portato. Se i comunisti non si fossero fermati alla frontiera, avrebbe potuto succedere qualsiasi cosa. La soluzione migliore sarebbe stata quella di approfittare al massimo dell'attuale situazione favorevole e di andarsene in tempo. Ma dove? Macao, Manila, America del Sud? Dove trovare sicurezza per l'avvenire? E ora, a tutte queste preoccupazioni di vecchio padrone, si aggiungevano quelle procurategli da numero 3, che si era messa in testa di diventare una stella del cinema. Non c'è quindi da meravigliarsi se una sera, uscendo dalla stanza di numero 3 dopo una scenata, il vecchio padrone temeva numero 3 a causa della sua lingua pronta e della sua voce alta. Egli fosse tanto immerso nei suoi pensieri da inciampare in "Oh no!" accoccolata sotto le scale dove era solita dormire. "Donne e schiave sempre fra i piedi!" gridò furibondo. Poi riconobbe "Oh no! Preparami una pipa, svelta!" ordinò. Oh no, sapeva preparare bene l'oppio. Con agili dita aveva rapidamente lavorato la pallina rotonda sulla sua bacchetta d'argento finché non era stata pronta da mettere nella pipa. Si era accucciata sul pavimento della stanza di vecchio padrone mentre questi fumava, sdraiato sul divano. E poi la cosa terribile era accaduta. Dapprima, Oh no aveva cercato di difendersi a pugni e a calci, piangendo. "Zitta!" le aveva ordinato vecchio padrone. "Vuoi forse che Terza Tai Tai venga a batterti?" Allora si era rassegnata a lasciarlo fare, mordendosi le mani. Alla fine, vecchio padrone le aveva dato un biglietto da $1 e le aveva voltato le spalle per dormire. Oh no, era ritornata sotto le scale. Per 2 giorni, Oh no non aveva detto nulla a nessuno, ma il terzo giorno sanguinava ancora e non aveva più stracci da usare. Aveva dovuto confidarsi con vecchia Ching, la più anziana servente di famiglia venuta a Hong Kong col treno insieme al bagaglio pesante. "Vecchia madre, madre Ching, c'è del sangue sui miei pantaloni." Vecchia Cinga aveva alzato il capo, era molto sorda. Honor era quasi stata costretta a gridare. Sangue? La vecchia Cinga aveva mostrato le sue gengive in un sorriso. Sei una donna adesso, è naturale. Madre Cinga, non è questo. Evidentemente, qualcosa nel viso di Ranocchietta Pallida di Honor doveva aver colpito la vecchia. Facciamo una passeggiata, aveva proposto. Sui piedini fasciati, poiché Ching era molto vecchia e veniva dal vecchio feudale Sichuan, dove ancora si vedono i piedi fasciati, ella era scesa barcollando i 45 gradini che portavano dalla casa alla strada, seguita da Honor. Ora dimmi, chi è stato? Vecchio padrone. Quando? 3 giorni fa. Allora, vecchia madre Ching aveva schiaffeggiato Honor. Uovo di tartaruga, aveva gridato. Così giovane già corri dietro agli uomini. Ma io non volevo. Non ci sono scuse. Non hai vergogna a venirmi a parlare delle tue porcherie. Dovrei lasciarti morire come un cane. In quel momento, qualcosa che Hono non aveva mai sospettato di possedere si era risvegliato in lei. Un senso di fiera ribellione che non sarebbe mai più scomparso. Hono era una contadina. Ed esiste un limite a quello che una contadina può sopportare, anche se nativa dello Sichuan. Ma madre Ching era vecchia e non se n'era accorta. Aveva continuato a insultare Honor, e Honor l'aveva ascoltata in silenzio, fissando lo spazio fra le colline e il mare. Rincasando, vecchia Ching aveva dato a Honor del tabacco tagliuzzato e un cartoccio di unguento scuro. Mettiti questo, ti farà fermare il sangue, poi sdraiati sul mio letto, non devi alzarti per un paio di giorni. Il sangue si era fermato e Honor era tornata a dormire sotto le scale. Ma i servi avevano visto Honor sul letto di Madre Ching e avevano immaginato quanto era accaduto. Alcuni di essi avrebbero voluto andare da Honor sotto le scale, ma avevano paura che vecchio padrone desiderasse usarla ancora. Tuttavia si erano burlati di lei, raccontando storie oscene in sua presenza, tanto che Honor aveva creduto di morire di vergogna, aveva persino pensato di uccidersi. Ma poi non l'aveva fatto. In lei la ribellione non faceva che aumentare, attendeva senza sapere che cosa. Mi vendicherò, si diceva, e le sembrava che la sua intera vita si limitasse ad una parola che era un grido: vendetta. Capitolo 6, parte 4. Perché non posso andare a vedere Assassinio sotto la luna? Protestò May. Ginger dice che è magnifico. Non puoi andare al cinema tutte le settimane, le rispose la madre. Faremo una passeggiata con Ginger intorno al Pic, raccoglieremo felci e poi andremo a sederci in pasticceria a prendere il gelato con una fetta di torta alla crema. Ma Ginger va di nuovo a vedere Assassinio sotto la luna? Ci sono dei bambini fortunati che vanno al cinema tutte le sere. Io non sono allevata come gli altri. Non voglio che tu vada al cinema tutti i sabati, ribatté la madre. Fa male alla vista. I genitori degli altri bambini non se ne curano. Sono tanti in casa che li lasciano volentieri andare al cinema per avere un po' di pace. I miei amici, dichiarò May con superiorità, masticano gomma e comprano fotografie delle stelle del cinema e tutti i fumetti umoristici. Leggono Film Weekly. Ginger e io andremo in America quando saremo grandi. Anche in America la gente non va al cinema ogni giorno, a volte lavora. Tutti gli americani sono ricchi, disse May con fermezza. Hanno tutti l'automobile e ballano molto. Le donne americane sono più grasse davanti alle cinesi, soggiunse guardando la madre con aria critica. Oh, cielo! Esclamò la madre esausta. Comprerò ad entrambe gomma da masticare e prenderemo una fotografia di Ingrid Bergman per te e una di Lana Turner per Ginger. Quando sarò grande, dichiarò May, non voglio lavorare molto, è sciocco e fa invecchiare. Sposerò un uomo ricco come tutte le altre. Benissimo, approvò la madre. Credi che potrò venire ad aiutare le tue amah a badare ai bambini? Gli americani non hanno mai bambini, ma sono sempre innamorati, il che è molto noioso. Hai intenzione di sposare Mark? È ricco? Non credo che sia veramente ricco, ma dimmi, ti piacerebbe se lo sposassi? Se lo sposerai e se andremo a vivere ancora in una casa e non in un brutto ospedale, mangeremo cibi cinesi o inglesi? Un giorno cinesi e un giorno inglesi. Alla mia scuola c'è una bambina, la madre della quale ha sposato un inglese, disse May. Le altre bambine si burlano di lei e dicono che suo padre è un diavolo straniero che puzza. e ridono di lei. Che sciocchezze. Comunque Mark non può essere tuo padre, perché tuo padre è morto. Può soltanto essere mio marito, quindi non c'è niente da dire. Lo dirò alle ragazze. Certi bambini non capiscono queste cose, disse May, e il suo viso assunse quell'espressione presuntuosa che la madre aveva spesso. Quella ragazza è stupida, piange quando ci burliamo di lei, ma quando dirò loro che un mio amico inglese vuole sposare mia madre, non rideranno di me perché io non piango mai. Capitolo 6, parte 5. Lily Wu abitava nel quartiere cinese di Wansai, ma la sua zona, come quella di molte altre della sua professione, era il quartiere degli affari di Hong Kong, con i suoi imponenti edifici vittoriani e le larghe vie intorno al Gloucester Hotel e all'Hong Kong Hotel, dalla Shanghai Bank fino a Whiteways, da un lato, e dal China Emporium alla Mercantile Bank, dall'altro. Anche Lily era profuga. Negli ultimi 6 anni, fino all'arrivo dei comunisti, aveva lavorato a Pechino in una casa di seconda classe del quartiere occidentale. Poi le case erano state chiuse e il lavoro proibito. Non siete più le schiave degli uomini, siete il popolo, avevano detto i comunisti. Avevano dovuto subire un'accurata visita medica con analisi del sangue per le malattie venere. Le ammalate erano state mandate all'ospedale e le altre a un campo femminile di riabilitazione. Niente più profumi, rossetti, permanenti e manicure, niente banchetti e niente uomini. Per Lily era stata una vita spaventosa. Per 3 mesi avevano vissuto con molte altre prostitute di Pechino in un edificio che un tempo era stato un collegio. Avevano dormito nei dormitori degli studenti in due file di ordinati lettini da campo. Vestivano bluse e pantaloni grigi e sui capelli tagliati calzavano berretti a bustina come i soldati dell'Armata del Popolo. Il cibo grossolano aveva rovinato loro la linea. Si alzavano alle 6 e facevano ginnastica fino alle 7, poi avevano inizio i corsi. Lettura e scrittura per le analfabete, politica, storia del paese e doveri del cittadino. Spazzavano i pavimenti, rifacevano i letti, si lavavano la biancheria e nel pomeriggio prendevano lezioni di cucito. Cantavano inni patriottici mentre piantavano la verdura e giocavano a palla a volo. Giovani fanatici di ambo i sessi venivano a discorrere con loro e le ragazze avevano così scoperto quanto orribile fosse stata la loro vita. Durante le riunioni settimanali parlavano piangendo del loro passato, raccontando come fossero state vendute e quanto crudele fosse stata la loro madre, tra virgolette. Per quanto avessero lavorato molto ogni notte, erano sempre in debito. Narravano delle percosse ricevute e delle perversità a cui si erano adattate per piacere, dell'inevitabile crollo col passare degli anni da una casa di prima classe alla spaventosa vita della quarta classe, con una stuoia per letto nei vicoli e nei portoni, verso la quale trascinavano 20, 30 e persino 50 coolies per notte. Alcune fra le trentenni erano ormai vecchie, finite e senza quasi più capelli. Dopo i 3 mesi, molte avevano cominciato a parlare del futuro. Ora erano come gli altri e avrebbero aiutato a costruire la nuova democrazia. Lily aveva provato una certa invidia nel notare il cambiamento che era avvenuto in loro, nel vederle raggianti di zelo nei goffi pantaloni senza sesso. Molte erano diventate operaie, due avevano iniziato un corso per diventare ingegneri agricoli e una studiava medicina. Materiale di scarto. Lily aveva dovuto seguire con poche altre un secondo corso trimestrale. Per alcune è più difficile rinnovarsi, aveva detto l'istruttore politico. Ma Lily era nata con uno spirito da schiava. Provava un piacevole senso di eccitazione ogni volta che udiva la giovane schiava annunciare ad alta voce l'arrivo di un cliente e le piaceva vederlo avvicinarsi portando con sé l'imprevisto. Sentiva la mancanza dei ricchi banchetti a cui veniva talvolta invitata e non le importava di dover spesso patir la fame fra l'una e l'altra di queste splendide serate. Tu, Lily, non hai carattere, le dicevano le amiche. Non ne hai mai avuto. Perché non vuoi essere una donna rispettata e onorata? Il paese ha bisogno di noi tutte per la sua ricostruzione. Forse la vita sarà dura per noi, ma almeno non siamo più schiave, siamo libere, capisci? La Cina è ormai padrona del suo destino, grande e onorata. Nessuno potrà più opprimerci. Lily Sapeva di non avere carattere, era il suo destino. Sentiva la mancanza delle sue vecchie abitudini, stare a letto fino a mezzogiorno, trascinarsi in pantofole finché la schiava non le acconciava i capelli, vestirsi e attendere gli ospiti. Non le importava degli strani gusti degli uomini e dei loro desideri, a volte curiosi e anormali, era sana e robusta. In quei 6 mesi non aveva imparato nulla. La riabilitazione passava su di lei al pari di sabbia attraverso un setaccio, senza lasciare traccia. L'istruttore politico aveva sospirato quando Lili gli era nuovamente comparsa davanti. Compagna Wu, aveva detto, ti consiglio caldamente di rimanere altri 6 mesi allo scopo di rettificare la tua mente. Non hai fatto molti progressi. Lili aveva abbassato il capo. Vorrei raggiungere i miei amici a Shanghai, aveva detto infine, mi troveranno lavoro. L'istruttore non era uno stupido e si rendeva conto che certa gente non poteva essere salvata. Era una missione che gli costava, poiché egli era dotato di molta fede e pazienza, ma non c'era nulla da fare, così non aveva insistito oltre. Credo anch'io che ti troverai meglio con i tuoi amici di Shanghai, ma forse si saranno trasferiti a Hong Kong. Hong Kong è ora rifugio di gente di ogni genere. Sì, credo che troverai i tuoi amici a Hong Kong, aveva concluso, pur sapendo che gli amici di Lily erano inesistenti. E così Lily era venuta a Hong Kong. La zona da lei battuta era la migliore della città e quando non girava in cerca di clienti, sedeva tranquillamente nell'atrio di uno dei più lussuosi alberghi. Capitolo 6, parte 6. Myrtleton V. Bradman, si disse Anne Richards, se avessi un martello, non esiterei a dartelo sulla testa. Myrtleton era caporedattore del giornale più importante della città natia di Anne. Piccolo, energico e rubicondo, portava la cravattina a farfalla. Ora stava facendo un viaggio in Oriente in cerca di argomenti da mettere in pentola e le sue opinioni, un tempo limitate a Hokenshi Chow City, si erano ormai spostate su di un piano internazionale. Amava tutti, ad eccezione dei neri, degli ebrei, dei rossi e dei filorossi delle colonie britanniche, del colonialismo francese, del presidente Roosevelt e dei democratici americani. Amo l'umanità, soleva dire, semplicemente. Dato che veniva dalla sua città natia, Anne Richards dava un cocktail in suo onore. Aveva invitato 2 o 3 cinesi, 2 funzionari governativi britannici, un indonesiano, un francese. Appartata in un angolo con un sorriso forzato sulle labbra, Anne si asciugava le mani sudate in un fazzoletto di pizzo. Vorrei sprofondare sottoterra, pensava, pur di non rimanere più a Hong Kong, farei qualsiasi cosa. Andrò in Indocina e mi farò vietnamita o monaca buddista. In quel momento Myrtleton si avvicinò a Mr. Chan, proprietario di uno dei più popolari giornali cinesi di Hong Kong. Salve, amico! Gridò. Buonasera, Mr. Bradman, rispose Mr. Chan nel preciso inglese proprio ai cinesi settentrionali. Fa piuttosto caldo, vero? Oh, non certo per noi di Hokenshi Chow, tuonò Myrtleton. Se lo volete sapere, fratellino, da noi fa così caldo che a volte scottano persino le monete in tasca. Sì, signore. Ma raccontatemi un po' come vanno le cose qui, dato che lavoriamo entrambi nella stessa baracca. Avanti, scodellate la minestra a paparino. L'amitezza di Mr. Chan era pachidermica quanto la persona. Dai suoi 2 metri di altezza squadrò pensosamente il piccolo Myrtleton. Chi è quest'uomo? Chiese in cinese. E da dove viene per parlarmi a questo modo? Viene da una provincia americana, spiegai. Dovete perdonarlo, non intendeva essere scortese. Confucio disse: Non preoccuparti se gli altri non ti capiscono, preoccupati soltanto di non capirli tu stesso. Ora, Myrtleton puntò su Mr. Marayan, l'indonesiano, sommergendolo con una sequela di esplosive sciocchezze sullo sviluppo della democrazia e della cultura in Indonesia. Voi ragazzi dovreste seguire il metodo di vita americano, concluse. Il saluto che mi rivolse quando mi si avvicinò mi fece impallidire di rabbia. Salve, Cacin Chow, tuonò cordialmente. Per noi cinesi l'appellativo Cacin Chow, quello di codino e la richiesta di essere portati a visitare una fumeria d'oppio costituiscono autentiche offese, poiché come gli occidentali siamo sensibili a determinate allusioni. Ditemi, continuò Myrtleton, quando è che voi ragazzi vi deciderete a fare qualcosa per liberare il vostro paese dai rossi? Suppongo vogliate alludere al governo del popolo, risposi con una certa freddezza. Si è insediato a Pechino una settimana fa e penso che molti non desiderino affatto esserne liberati. Toh, siete forse seguaci di Mr. Mayo? Chiese Myrtleton V, lanciandomi un'occhiata scandalizzata. Mr. Mayo? Si intromise Anne, precipitandosi a offrire da bere al suo connazionale, poiché conosceva il mio brutto carattere. Suppongo vogliate dire Mr. Mao Zedong? Ah, è così che si pronuncia, si stupì Myrtleton. Strano, non l'avevo mai saputo. Persino nel mio retrogrado paese sappiamo pronunciare esattamente il nome di Truman, disse seccamente Mr. Marayan, che non si era ancora riavuto. 10 minuti più tardi, Myrtleton riuscì a farsi strada fino a François Perrin, il francese. Voi siete il francese, vero? Gli chiese. Beh, allora potrete essermi utile. Domani passerò da Hanoi e la settimana ventura sarò in India. Come sapete, sto facendo un intensivo giro di 3 settimane in Oriente. Ah sì? Disse François. Piuttosto rapido, direi. Ah, non posso dedicarvi più tempo di così, dichiarò Myrtleton. Beh, cosa mi potete dire su Hanoi? E puntò l'indice tozzo contro il bellissimo panciotto di François dai bottoni d'argento bulinati. A noi è un posto stupendo, rispose François. Vi ci divertirete, buon vino e buona cucina. Non prevedo di divertirmi in nessun luogo, replicò Myrtleton. Siamo seduti in cima a un vulcano, soggiunse cupamente. Passò infine all'attacco del funzionario governativo britannico. Io sono contrario al colonialismo, gli annunciò subito. Contrarissimo. Noi vogliamo liberare tutti. Non diamo certo denaro all'Inghilterra per mantenere questo stato di cose. E con un vago gesto della mano indicò il porto e le colline. Vogliate perdonarmi, Mr. Chan, disse Anne. Non sapevo che in America esistesse gente di questo genere, o almeno me ne ero dimenticata. Ma vi è sicuro che mi è simpatico, la rassicurò Mr. Chan. È uno zotico campagnolo venuto in città, come diciamo dalle mie parti. È sincero e crede di poter capire ogni cosa in 5 minuti. Oggi poi è soddisfatto perché ha potuto parlare con tante nazioni. Suppongo che ora sia diventato un esperto e tale resterà per sempre. Ancora oggi Myrtleton V. Bradman tiene conferenze nel suo stato sui problemi asiatici. È il conferenziere prediletto dei circoli femminili, grazie alla sua maniera diretta ed efficace di affrontare qualsiasi argomento.